Smart City, voci e luoghi dell'innovazione. Buonasera da Maurizio Melis. I pannelli fotovoltaici commerciali del tipo con cui si realizzano gli impianti sui tetti delle case hanno efficienze comprese tra il 10 e il 20% o poco più. Renderli più efficienti è un obiettivo da sempre al centro degli sforzi della ricerca e se consideriamo le economie di scala che si sono raggiunte in questo settore e il fatto che la parte attiva, cioè le celle vere e proprie, ormai rappresentano una frazione minoritaria del costo di un impianto fotovoltaico, aumentare l'efficienza è anche il modo migliore per abbattere i costi. Ma perché una cella fotovoltaica non riesce a convertire in energia elettrica tutta la luce visibile e anche invisibile come i raggi infrarossi che riceve dal sole? Ci sono diversi motivi. Uno di questi è che ogni cella assorbe solo la luce di certe lunghezze d'onda, in altri termini solo certi colori, mentre è trasparente al resto della radiazione. Un team formato da ricercatori dell'Università di Kyushu in Giappone insieme ad Angelo Monguzzi dell'Università Milano Bicocca hanno messo a appunto una metodologia in grado di sfruttare anche questa radiazione persa. Buonasera Monguzzi. Buonasera a tutti. Salve. Allora, lei è il fisico teorico del team e anche quello da cui è partita la ricerca che il mese scorso ha portato anche una pubblicazione su Nature Materials dove descrivete questo speciale nanomateriale che avete messo a punto. Ecco, partiamo da qui. Che proprietà ha? Dunque, innanzitutto è un nanocristallo, un cristallo artificiale ovviamente che abbiamo sintetizzato in laboratorio ed è un cristallo fluorescente, cioè è un oggetto che è in grado di emettere la luce. La sua caratteristica principale appunto è però quella di essere stato costruito per assorbire la luce di un certo tipo e riemettere una certa radiazione con certe caratteristiche, appunto, che incontrano i bisogni della cella fotovoltaica. Caratteristiche della cella fotovoltaica, esattamente. Assorbe un certo tipo, certi colori, diciamo, ma poi risplende di colori diversi da quelli che assorbe, giusto? Esattamente. Opportuni. Esattamente. Opportuni perché, appunto, consente di migliorare i pannelli fotovoltaici. Come? In che modo? Allora, dunque, il trucco è proprio questo, poiché i dispositivi fotovoltaici sono basati sui semiconduttori, i semiconduttori non assorbono tutto lo spettro solare e quindi bisogna tentare di migliorare questa capacità di raccolta della luce. Una strada è quella di modificare anche chimicamente il materiale semiconduttore, l'altra è quella che abbiamo intrapreso noi, cioè manipolare lo spettro solare in modo da trasformare la luce in luce utile a essere assorbita per la cella solare. Quindi prendiamo la parte a cui la cella solare è trasparente, la trasformiamo in luce che può essere assorbita, quindi miglioriamo l'efficienza di raccolta della luce del dispositivo. Perfetto. Dal punto di vista pratico, che cosa si fa? Praticamente l'obiettivo finale è quello di aggiungere uno strato plastico che contiene questi nanocristalli sul retro della cella solare in modo da assorbire la luce che attraversa il dispositivo, assorbirla, trasformarla e rimandarla sul dispositivo stesso, quindi recuperando parte della radiazione che sarebbe totalmente persa. Totalmente persa. Anche le celle al silicio che noi vediamo nere in realtà sono trasparenti ai famosi raggi infrarossi di cui parlavo all'inizio, che sono circa metà della radiazione che ci arriva dal sole, no? Per cui funzionerebbero anche lì questi sistemi. Sì, assolutamente. L'obiettivo, ovviamente, il massimo aspirazione è proprio recuperare tutta questa radiazione invisibile e renderla utilizzabile per dispositivi basati sul silicio, che sono oggettivamente più efficienti che ci sono, che vengono anche ovviamente usati in commercio. Ecco, ora, quanto aumenta l'efficienza con questo sistema? Dunque, teoricamente con una cella al silicio molto simile si può aumentare l'efficienza del dispositivo del 30%. Che è tantissimo. Si fanno delle battaglie per molto meno, assolutamente. Dunque, voi con il vostro lavoro avete dato prova che il sistema in laboratorio funziona, è una proof of concept, diciamo così. Ora, quali saranno i prossimi passi? Perché non è che domani si può applicare questa roba a tutti i pannelli esistenti. Magari, ma è il vostro obiettivo. Adesso cosa dovete fare per arrivare fin lì? Esattamente. Noi abbiamo la dimostrazione che questo tipo di materiale può essere utilizzato, per cui si può passare allo sviluppo di un materiale che sia innanzitutto facili da costruire, da sintetizzare, che abbia performance le più alte possibili e soprattutto deve essere adattato esattamente alle specifiche dei dispositivi commerciali, perché diciamo un vantaggio del nostro approccio, cioè della modifica dello spettro, è quello che si vogliono utilizzare i dispositivi fotovoltaici che esistono già. Tal quale, se possibile, no? Sostanzialmente. Con l'aggiunta solo di questo strato. Con l'aggiunta, esattamente. Quindi è un fenomeno, noi usiamo un processo che è tutto ottico, cioè assorbiamo luce e ne mettiamo altra, quindi non bisogna modificare il dispositivo. L'architettura elettronica dei dispositivi. Ecco, in compenso, siccome ognuno dei dispositivi in commercio ha delle caratteristiche diverse per quanto concerne il tipo di luce che assorbe, per il tipo di luce a cui è trasparente, bisogna anche sviluppare tanti di questi cristalli opportunamente. Ed è questo il vostro lavoro dei prossimi anni. A seconda della cella solare che si vuole utilizzare, plastica, silicio, celle fotoelettrochimiche, si devono modificare le caratteristiche del cristallo e adattarlo alle specifiche richieste. Esattamente. Grazie Angelo Monguzzi. Prego, arrivederci. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani.